Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Proseguono in tutti i paesi dell'Unione le iniziative per l'anno europeo dei cittadini, dedicato ai diritti conferiti dalla cittadinanza europea. Al giro di boa della campagna 2013, Letizia Markakis di Euronet Plus ha fatto il punto della situazione con il presidente della Commissione europea, Manuel Barroso. It's not one thing we can do just on one strike. Non è qualcosa che possiamo ottenere in un colpo solo, è un processo, ma credo che oggi i cittadini dell'Unione Europea sentano che, indipendentemente dalle loro singole cittadinanze, sono anche cittadini d'Europa. Per esempio, la maggior parte dei portoghesi sono molto patriottici, amano il loro paese, ma nello stesso tempo sanno che il loro paese fa parte dell'Unione Europea e che loro hanno dei diritti che prima non avevano, ad esempio per lavorare in un altro paese se necessario, con gli stessi diritti delle persone di quel paese. E lo stesso spirito esiste anche in Finlandia, dove c'è una grande coscienza civile, e anche la Polonia è un paese che sta supportando l'integrazione europea. Non vedo contraddizioni tra il bisogno di identificarci con il nostro paese, che chiamiamo comunemente patriottismo, e la cittadinanza europea, la consapevolezza di appartenere anche a una comunità più ampia, che è anche la strada per proteggere i nostri interessi e promuovere i nostri valori. Nonostante le tensioni sul caso dello spionaggio, la complessità dei negoziati sul libero scambio, Bruxelles e Washington hanno raggiunto un importante accordo. Ci sarà reciprocità delle regole tra Europa e Stati Uniti in materia di derivati. La storica intesa tra i due blocchi è stata annunciata ieri al termine di un anno di negoziati. Washington e Bruxelles hanno accettato di riconoscere le rispettive norme per la regolamentazione del mercato degli swap, il cui volume d'affari raggiunge l'astronomica cifra di 633 mila miliardi di dollari. L'accordo evita soprattutto, secondo gli analisti, conseguenze pesanti per i mercati finanziari. Impedirà un vero e proprio market crunch. Le grandi banche d'affari avranno infatti maggiori certezze su chi le regolamenta. In base ai termini del patto, la Commodity Futures Trading Commission, l'agenzia indipendente americana che regola il mercato dei futures e delle opzioni, permetterà alle banche statunitensi operanti in Europa di fare riferimento alle leggi locali, evitando di dover rispettare due impianti normativi. Nessuna autorità farà quindi valere le proprie regole al di fuori della propria giurisdizione. I negoziati sono stati lunghi e a volte difficili, ma sono sempre stati continuativi e collaborativi, ha commentato il commissario europeo al mercato interno Michel Barnier. Il presidente della CFTC, Gary Gensler, ha spiegato che l'accordo rappresenta un altro passo significativo nel percorso comune volto a portare trasparenza e a ridurre i rischi su scala globale nel mercato degli swap. Sergio Nava, Radio 24 e Sole 24 Ore. Sono Federico Taddia e oggi vi presento il bando per traduttori di lingua italiana presso le istituzioni dell'Unione pubblicato dalla Commissione europea. Con lo slogan «Tradurre idee, non solo parole», si aprono quindi le selezioni per diverse lingue, oltre all'italiano anche l'inglese, il francese, l'olandese, il maltese e lo sloveno. Possono partecipare al concorso i cittadini di uno Stato membro che siano in possesso di un diploma universitario triennale. I candidati devono dimostrare di possedere, oltre alla perfetta padronanza della propria lingua madre, un'ottima conoscenza di una delle tre lingue procedurali della Commissione europea, francese, inglese o tedesco, e una conoscenza approfondita di una seconda lingua, diversa dalla prima, da scegliersi tra le 24 lingue ufficiali dell'Unione europea. Non vi sono limiti di età e non è richiesta esperienza professionale. Per proporsi è necessario registrarsi entro le ore 12 del 13 agosto 2013 sul sito dell'EPSO, l'Ufficio Europeo di Selezione del Personale, europa.eu/EPSO. Ecco dunque anche segnalazioni di opportunità di lavoro che, vi ricordo, ritrovate sempre su radio24.it. Domani intanto l'appuntamento del sabato con l'altra Europa, quindi ritroviamo Federico Taddia che ci racconta anche l'Europa e l'Unione sotto una chiave, diciamo, più personale. E con questo abbiamo concluso la settimana di Europa 24. Da Carmelo Lauricella in regia, Gigi Donelli al microfono, un saluto, l'appuntamento lunedì poco dopo le 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.